Italia in controluce. Da che parte è la mia casa? Di là! Una volta speravo solo di tornarci a casa mia. E l'avrete sicuramente riconosciuto, state sentendo in sottofondo un brano tratto dalla Strada di Fellini, uno, forse il suo film più famoso, uno dei riferimenti culturali citati da padre Bergoglio nella sua intervista, la prima intervista pubblicata su Civiltà Cattolica, la rivista dei gesuiti, del resto ricordiamo che Bergoglio è un gesuita. Nel film di Fellini c'è un implicito riferimento a San Francesco, dice il Papa, ed è per questo dunque che l'ha citato. Una Chiesa madre, prima che maestra, che si comporti come un ospedale da campo dopo una battaglia curando le ferite, la riforma che sta più a cuore al Papa, come si evince appunto dalla sua intervista su Civiltà Cattolica. E nell'ospedale da campo c'è spazio per tutti, anche per i divorziati, anche per i gay, anche per le donne che hanno abortito. Fra i passaggi più significativi la necessità di tornare all'essenziale, ossia al Vangelo, e l'apertura appunto verso divorziati, risposati, gay, anche le donne che hanno abortito, nel nome della misericordia e dell'accoglienza. Ernesto Emanuele ha fondato l'associazione Famiglie Separate Cristiane, lo ha intervistato Katia Caramelli per sentire insomma quali sono stati i commenti a questa intervista. Quando padre buon samaritano parla del Vangelo, non parla di altre cose, no. È un linguaggio nuovo rispetto ai papi precedenti, rispetto alla Chiesa precedente. Però di accogliere, lo diceva Gesù, insomma, il buon samaritano si è chinato sulle ferite, non gli ha fatto la predica perché andate per questa strada di notte, eccetera, eccetera, non vi rendete conto che sbagliate. Quindi la grossa novità è quanto lui insiste sulla misericordia. Sì, perché lui comunque dice torniamo proprio al Vangelo. Perché lei ha detto proprio giusto, torniamo al Vangelo, torniamo a una lettura del Vangelo con sfondata di moralismi. Quando Gesù riceve la prostituta che gli asciughi i capelli coi piedi e la gente si scandalizza e dice ma lei ha molto amato. Ecco, ritorniamo al Vangelo, ritorniamo all'interpretazione del Vangelo puro, non moralistico, non giudicante, soprattutto non giudicante. Perché lui dice io non posso giudicare la situazione della persona, della madre che ha abortito, poi si è risposata, ma anche una persona che vive in una situazione, diciamo tra virgolette, irregolare. E adesso che cosa nel concreto però potrà cambiare per voi, diciamo così, separati cristiani? Posso essere pessimista, cambiare la Chiesa è difficile, pur con un Papa così, ma c'è tutta una struttura. Quando una persona ha 60 anni, è difficile che diventi misericordioso se non l'ha mai stato. Ma che? Sergio Mattiti? Ma che sei venuto a fare qui? Ma io sto benone! Avete capito? State calmo, per l'amore di Dio, ma io sto benone! Ma io sto benone, voglio campare 100 anni alla faccia apposta, avete capito? Ma stanno arrivando? Ma chi stanno arrivando? I tedeschi! I tedeschi? Ma io me ne frego dei tedeschi e dei fascisti, io gli faccio un... Non solo la Strada di Fellini ma anche Roma Città Aperta e Aldo Fabrizi nei riferimenti fatti da Papa Bergoglio nell'intervista a Civiltà Cattolica. E l'avete sentito, insomma, non è molto ottimista Ernesto Emanuele dell'Associazione Famiglie Separate Cristiane. Cambiare la Chiesa è difficile, dice. Parla invece di segnale importante, ma che bisogna vedere che ricadute avrà poi sulla Chiesa, il teologo Vito Mancuso. Lo ha intervistato sempre Katia Caramelli. Mi sembra che la direzione sia esattamente quella giusta, assolutamente necessaria per il nostro tempo. Vede, ci sono due modi di essere cristiani. C'è un modo dogmatico che impone una fedeltà al passato, ai documenti stabiliti, ai pronunciamenti compiuti. C'è un modo che definirei spirituale, che impone una fedeltà non al passato ma al presente, alla vita concreta degli uomini e delle donne concrete, con i loro problemi, le loro gioie, le loro speranze, le loro angosce, eccetera, eccetera. E il Papa ha capito che il cambiamento di rotta è esattamente nel passaggio da una fedeltà al passato a una fedeltà al presente. E poi il Papa fondamentalmente guarda a tutti quelli che si sono allontanati dalla Chiesa Cattolica e dice basta con i giudizi, basta con le condanne e soprattutto torniamo all'essenziale che è il Vangelo. Guardi, a me sembra musica sopraffine, proprio quello che il Cardinal Martini per anni ha tentato di dire, quello in base al quale il Cardinal Martini veniva spesso visto come un personaggio inquietante, molto più attento alla cultura contemporanea, ai media, eccetera, eccetera, che non alla fedeltà alla Chiesa. Adesso abbiamo il supremo pastore della Chiesa che dice questo, quindi si tratta veramente di tornare all'intenzione originaria di Gesù, che non era la religione, ma era la vita concreta degli uomini concreti, come torno a dire. La religione, i religiosi, l'istituzione sono stati grandi nemici di Gesù, sono stati coloro che, sappiamo tutti com'è finita la vita terrena di Gesù di Nazareth, e il Papa esattamente capisce che la vera fedeltà è a quella intenzione di fondo, che è quella di servire l'esperienza concreta, perché possa tornare a essere piena di speranza. Abbiamo bisogno di speranza in questo mondo così cupo. Secondo lei, poi nel concreto, diciamo così, nella vita delle diocesi, a livello anche di curia, sarà recepito pienamente tutto questo? Dipenderà dai singoli vescovi, ci sono singoli vescovi che già cominciano a mutare, a cambiare il loro stile. Io conosco dei preti, dei frati, che per anni sono stati emarginati, considerati eretici, considerati bastian contrari, infedeli rispetto al magistero, che tornano a respirare. Dipenderà molto dalla macchina ecclesiastica, insomma, se i singoli pastori, i singoli dirigenti, per così dire, a livello locale, si convertiranno veramente a questa nuova energia, quindi non, che pone al centro non l'istituzione ma le persone, allora potremo avere finalmente il compimento di quello, il processo che è cominciato col Vaticano II. Se questo non avverrà, probabilmente ci potranno essere anche contestazioni, magari qualche scisma, già da parte di certe frange tradizionaliste malumori serpeggiano, e la distanza tra la Chiesa cattolica e il mondo contemporaneo sarà sempre più ampia. Io però devo dire, sono fiducioso, si sta muovendo con molta sapienza il Papa, nel senso che innova senza rompere, con molta attenzione. In musica amo Mozart, dice ancora Papa Bergoglio nell'intervista a Civiltà Cattolica, quell'Et Incarnatus Est che state peraltro ascoltando della sua Missa in Dio è insuperabile. Queste le parole di Bergoglio, quindi un altro pezzettino, un altro riferimento culturale del Papa nell'intervista di oggi. Un'intervista realizzata in tre incontri dal direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, un'intervista che ha avuto una gestazione piuttosto complicata, insomma non semplicissima, come ha raccontato proprio padre Antonio Spadaro al nostro Paolo Panceri. L'idea di fare questa intervista è nata a Lisbona quando abbiamo avuto un incontro dei direttori delle riviste dei gesuiti dell'Europa e anche dell'America, del continente americano. È nata l'idea di intervistare il Papa, ci abbiamo pensato soprattutto su temi, diciamo, di rilievo, quindi intanto su temi che riguardano la compagnia, i gesuiti, in fondo per noi era un'occasione per chiedere che cosa significa per un gesuita diventare Papa e che cosa significa la spiritualità dei gesuiti per una persona come lui con la sua esperienza, ma poi anche interrogarlo sulla sua visione della Chiesa, su cosa intende fare, qual è il suo stile di governo, quali saranno i suoi passi. Allora abbiamo deciso di chiederlo e l'ho fatto durante una udienza che il Papa ha concesso a noi gesuiti della Civiltà Cattolica il 14 giugno. La sua prima risposta in realtà è stata no, poi ci ha pensato un po' e ha deciso di provare, perché dice sempre il Papa che lui fa fatica a rispondere alle domande, quando gli si pone una domanda in genere la risposta gli arriva dopo 5 minuti, quindi troppo tardi, ma alla fine il Papa ha deciso di accettare questa sfida e ho presentato a lui in anticipo mentre eravamo in Brasile una serie di domande possibili e quindi ci siamo incontrati il 19 di agosto a Santa Marta, ecco, per tre volte. Ho visto. Ecco, su quali temi secondo lei il Papa ha voluto mettere in particolare l'attenzione? Cioè che cosa gli sta, volendo fare una scala gerarchica di argomenti, di questioni, quali gli stanno particolarmente a cuore in questa prima fase del pontificato? È difficile perché è difficile intervistare il Papa, nel senso che si può conversare col Papa, il Papa è una persona capace di dialogare molto con chi gli sta davanti, ma non di rispondere a domande secche. e quindi lui ha di fatto ritratto un panorama, cioè ha fatto vedere una visione di Chiesa, la visione di Chiesa che lui ha nel cuore e nella mente, che ha già vissuto da cardinale arcivescovo ovviamente di Buenos Aires. E dovessi dire un punto che mi ha colpito in modo particolare, che io considero il cuore di questa intervista, è la visione della Chiesa, intesa come un ospedale da campo. Cioè lui vede in fondo il mondo come pieno di persone che vivono, che possono vivere una santità media, ma anche di persone, quindi ordinaria, non i grandi santi, diciamo così, ma dell'uomo comune, della santità dell'uomo comune, ma vede anche tanti feriti, tanta gente in difficoltà, la Chiesa in qualche modo ha a cuore soprattutto questi suoi figli, e quindi vede il mondo in qualche modo come un mondo pieno di persone ferite, e la Chiesa ha questo suo compito di essere esattamente in mezzo a loro. Staremo dunque a vedere quali effetti pratici, quali effetti insomma anche sulla teologia avrà questa intervista di Papa Bergoglio, davvero eccezionale, naturalmente salutata con grande entusiasmo da parte delle associazioni dei gay. Anche Vendola poco fa ha parlato: si resta senza parole dinanzi alla forza di un pensiero che scuote l'albero di tutte le nostre pigrizie, ha detto il presidente della regione Puglia, leader di SEL, Nichi Vendola. Penso, a fronte della disperazione del mondo, della disperazione frutto della crisi, della povertà, della pochezza della politica, Papa Francesco abbia recuperato rari esempi di vocabolario che ci restituiscono l'orizzonte della speranza. Grazie a Katia Caramelli e a Paolo Panceri per le interviste realizzate per questa puntata di Italia in Controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci.